dove lasciare l'uscita. Diciamo che spettava a lui, secondo me, prendere una decisione lui. Interessante che tu l'abbia fatto col cuore, hai dato la mano a tuo padre. Cosa devi fare? Purtroppo sono cose passate, lo so che sono cose che ti rimangono, ma è meglio non pensare. Ma adesso la macchina funzionante. Perché? E l'assicurazione non l'hanno fatta. Gliel'ha fatta l'assicurazione, spero. Adesso la macchina com'è? Ferma? Marciante. E mamma c'è, ti manda anche caratteristico. Ma perché è messa male come caratteristico? Ti può servire quella, la metti a posto e te la usi. Ah, e adesso paghi di più. Ho capito, sono un casino. Ti fa qualcosa di assurdo. Cosa c'è da fare? Ma come batteria oppure via? E allora se vuole la batteria magari passi giù. Era troppo fermo. E va con un bravo meccanico, ci va la mette un po'. Se non c'è qualche cosa di motore, di grippato, roba del genere. Avanti. Magari è. C'è un quadro strano, un video di buon anno, che sto vedendo. E attesi, non l'hai visto. Sto allagato. l'entrata. Chi l'ha fatto? E non è difficile, dai. E a chi deve fare la piccolità, c'è un po' che risveglio. Adesso cresce, vedrai. Dateli di meno da mangiare, io mi sembra un po' troppo cicciottello. Quanto c'ha adesso? Giolone adesso. Occhio, che quelli rotolano. Uia. Una volta ci giocato il tempo per farlo in mano. Di solito ne mettevamo le sciglie a fianco al letto quando lo chiamavamo con lui. Marco si ha fatto la giravolta, praticamente si è girato su se stesso e ci stava crescendo, gli ho fatto il tempo per farlo. Forse non erano euro, erano lire, capito? Erano 50.000 lire. Una volta siamo andati dalla pediatra a farlo visitare, e perché la te li state dando? Gliel'abbiamo detto. Ha preso una busta e ce l'ha regalato un bel, una busta di coso, una busta della spesa, e ce l'ha messo dentro. Ho detto, questo qui è omaggio, lo danno a me, l'omaggio lo do a Guido Maggio. E non ci è sembrato un bel. E noi ritenevamo umana 1 e umana 2. Perché me lo bevi? Più o meno sono tutti dati, tutto latte e ciccato, non è, sono tutti uguali, dai, non cambia la marca, ma poi in effetti il NES è quello, capito? Non è solo la marca. E poi ogni pediatra ordina il latte che vuole lui, perché c'erano degli incentivi, capito? Se incrementi quella marca, gli dai di lontano, capito? Q10, attenzione 10. Avanti. Ciao Gianni, Buongiorno, buongiorno. Che si dice? Che è Antonio? Già, tutto bene. Scusa già se volevo dire una domanda a Antonio, ma sei rientrato a lavoro Antonio? Infatti sono passato un paio di volte davanti all'officina e la cosa, come si chiama quella macchina col cassone, insomma mi viene la strada, però non ti ho visto, infatti ho detto boh, sanno che non ci sia Antonio. Ma ho capito chi sei. Roberto, sono, mi ascolti già. Roberto Quadrato, sì che ti ascolto, ma non ho avuto la televisione, c'è qualche altra radio. Perché? Aspetta un attimino, scusa un attimo. Poi se sei troppo amplificato. Come è troppo amplificato? No, stavo guardando se c'era il coso staccato, ma è inserito. Forse sono troppo vicino, ma troppo forte di radio sono. No, già va bene, dai, lasciala così. Lasciala gai, Robe. Sceso, sì. Allora sono sceso, una mattina accompagnare a mia figlia perché è fidanzata di Portottoro, viva Portottoro, anche se non ci sono mai, li ho accompagnati e l'ho trovata a Gardino, visto che stava piazzando dei mostri, sono lavorando micidiali, cosa hanno piazzato in poche ore. Perché il servizio di Gardino era quello che hanno cantato le vibrazioni. E avevano smontato alle 5 del mattino di smontare quello che hanno fatto il giorno prima a Torralba. E loro la mattina dopo stavano lavorando già, io sono sceso verso le 11 e avevano già piazzato tutto. Ogni azzo, come prendeva al cuore, si è andato a vedere le vibrazioni? No, non ci sono sceso, ma sinceramente mi hanno detto che non sono un granché. Tu le hai visti? Sì, le prime tre canzoni un po'. Diciamo, non le conoscevo io, dai, non mi stavo entusiasmando all'inizio, però poi hanno fatto tutte le canzoni conosciute, capito? E quindi un po' la gente si è scaldata, dai. Poi c'era un bel gente, come, mamma mia, non ho mai visto tanta gente così a Portottone. Pieno, da tutte le parti pure, in piazza, via mare era tutto pieno, non c'era un posto a camminare. Ma le immagino, vedi la festa, come dicono, la festa vanna. Adesso speriamo che sabato in Piazza d'Italia il tempo sia clemente, perché deve venire un po' di gente in Piazza d'Italia, come con gruppi musicali. Solo che è prevista pioggia, speriamo bene. Aspetta, faccio riprendere Antonio. Antonio, dove ti trovi? Ma dove sei? Hai cambiato casa? Ti sento un po' disturbato. Il segnale è 9 qualcosa, però non sei tu. Quando ti sentivo 9.30 era tutto diverso. Ah, la casa dove abitava tuo babbo, lì stai dicendo. Non gridare, ragazzi. E ora non sei disturbato. Adesso la saguba. Adesso sei salito 9.15. Quasi 15 dB, è tanto. Complimenti, adesso perché eri in mezzo al QRM, perché c'è un QRM, c'è un po' di propagazione oggi, è tutto un macello, ti senti un po' disturbato. Ok, che radio c'hai Arturo? Ma chi è che sta entrando? Chi è che vuole entrare? Io sento una portante, però non sta uscendo. Chi è avanti? Chi è avanti? Quando ti arriva già questa? Aspetta, guarda, non lo so. Vai avanti. Non c'è mai, dai. Infatti, mi sembra il segnale di Luca, anche qua, quasi 9.30, a Roma di Adio, sì. No, si butterà quello. No, perché l'altro giorno c'era un simpaticone, ma già l'ha trattato forte. Ho capito. Come? No, ho capito, cosa ha detto, c'era un simpaticone? No, c'era Franco Binario, c'era molta gente, dai. E mettevano la portata. C'era un bel questione, ci ha rovinato tutto, poi Franco se n'è andato e ha cominciato a andarsene tutta la gente. No, l'altro giorno eravamo con Gavino e Tino, di notte tardi, stavano facendo delle prove Gavino e anche Tino, stavano provando dei microfoni, solo che Gavino da me non arriva forte, arriva intorno a 9, Tino gli arriva anche più forte, e questo qua come parlava a cosa subito schiacciava e gli faceva, metteva un rumore e un fruscio, e ho capito che è perché quel segnale non c'è da sbagliare, poi ho avuto conferma da un'altra persona. Allora torniamo, ci spostiamo e siamo andati in coso, in mano laterale, ci seguiva, aspetta un po', ho dato la frequenza per andare un po' fuori, per vedere se ci seguiva, quindi aveva un apparecchio a sintonia continua, per cui ho avuto la conferma di chi era, di questo simpaticone. E poi il giorno dopo stavo parlando in, diciamo quasi banderole amatoriali, e si trometteva, c'erano questi qua di fuori che mi interessavano, degli amatori, però eravamo ancora in 11 metri, nulla, non faceva parlare un'ora, schiacciava, come si metteva, metteva questo disturbo e annientava quello lì. Me l'ha confermato anche il tipo che stavo parlando, ha detto dalle tue parti nel senso che era qua in Sardegna, perché questi erano di fuori, e poi ho avuto una conferma, ho fatto un paio di telefonate e ci siamo accorti di chi è questo simpaticone. Non si fanno i nomi, però l'ho bello minacciato, ho detto aspettati tu, se continui così ti aspetti l'escopo sotto casa e ti sequestrano tutto. Speriamo che nell'abbia smessa e soprattutto che stia ascoltando. Di nuovo a te Luca. Vado a dormire altro po', almeno guarda, almeno altre 10 ore. E cosa hai combinato lui? Quando uno non fa niente si stanca, Roberto. Ho capito. Quando uno non fa nulla si stanca. Perché non stai facendo niente? No, stavo lavorando, Roberto. Adesso mi devo riprendere un po'. Sabato dovrei essere in forma di formaggio. E infatti ti sento un po' gabbacchiato, ho detto, buh, strano Luca, normalmente è un grillo parlante. Ok, adesso facciamo riprendere Antonio, che è quello più in parcheggio, e poi riprende Gianni. Vai Antonio. Roba, mi sono fatto 48 ore di lavoro in 3 giorni. E cosa hai combinato? Stavo lavorando. Trabajando. Se vuoi dirlo che genere di lavoro, se no lascia perdere. Caro bar, ma lo stand. Devo dire lo stand, nelle bancarelle. Luca, volevo dire, purtroppo, se devi fare qualche spiccioletto, anche quello la fatica ci vuole, poi ci avrai modo di recuperare, cosa vuoi dire, dica. Luca, l'importante è non stare senza far niente, anche se è faticoso, però almeno c'è qualche spiccioletto e te lo puoi tenere per cose importanti, dai. Vai Gianni. Ehi, vabbè, ritornando al discorso di poco fa, di quello che disturbava, io non capisco perché la gente sprechi i soldi a comprarsi apparecchi, per poi disturbare gli altri, ma che gusto ci prende? Stasera c'era un bel QSO che ci ha rovinato tutto, devo essere contento che è riuscito a rovinarci tutto qua. E vabbè, meglio video che sei tu marano di Diaghissu. Allora se fai la media di 16 ore al giorno, 16 giorni sono 1600 euro, fate un conto, 1600 euro in un mese, sono 3000, che si fa qui di naso? Già lo so, stavo dicendo, ma qualcuno, lo sentivi Luca, quando sta parlando Gianni, sentiva bim, qualcuno tipo alfabeto Morse, sotto Gianni? No, praticamente sono in un mese 4800 euro. Ci sei fatto? No, se fai te, ma è, come cazzo fai? C'è qualcuno sta mettendo portante, sia a Luca che a Gianni. Allora qua arriva un segnale fortissimo, quando parla Luca fa dava tun tun tun tun tun, quando c'era Gianni era tipo alfabeto Morse. Lascia lo fa, vediamo un cazzo chi fa, roba, ti devo dire, scusa, poco fa è stato importante. Ma da dove viene? Cioè per arrivare adesso tu sei salito a 9.40, non ti fai di nuda, ma per orientare quando stavate parlando con Franco Binario che vi arriva a 9.50, chi è che arriva così forte? Avete parlato di noi, si è capito la mazza. Scusa già, ho detto come fa uno a passare a Franco Binario già quando ce l'hai vicino? Lo passava, praticamente passava Luca, Franco, passava tutti, era 9.30 quasi. qualche volta accende sul 10, non capisco. L'interrogativo è di che canale state andando la notte? Allora io non è che vado, raramente vengo la notte, però è capitato un paio di volte che ero sul 12 con Gavino, che stavamo facendo delle prove, come l'altro giorno, la settimana scorsa, e poi da Tutino stava provando dei microfoni, adesso non mi ricordo, e c'era questo simpaticone che metteva portante, ma portante con un fruscio, tipo quando c'era la radio vicina, proprio fastidiosa, non riusciva a farmi parlare, come parlava Gavino, questo fruscio, ho detto spostiamoci, siamo anche sentiti per messaggio, ci ha seguito da tutte le parti, proprio con cattiveria l'ha fatto, loro mi sentivano perfettamente perché a me il segnale arrivava fortissimo, più di 9,20, e so chi è, non c'è da sbagliare quel segnale quando è attaccato, e a loro neanche lo sentiva, Tino 7 e Gabino 2,3, per cui ha fatto la triangolazione, ha fatto qualche telefonata e non c'è da sbagliare chi è, e l'ho avvisato, sai, molto ma molto attento, difficilmente mi vedi un po' turbato, però a quel signore lì, perché l'ha fatto anche l'indomani, gli ho fatto una bella tiratina di orecchie, mi auguro che non lo faccia più. Vabbè, purtroppo questa gente c'è sempre stata, però si pensava che se nemmeno persone fossero più selezionate le persone, ci fosse gente più in down, invece qualche pedina sporca è rimasta sempre. Un attimo già, che sono al telefono. Scappa, vabbè. Comunque, io adesso vi saluto e vado a portare giù Tyson, dai, il poverino. E tranquillo, tranquillo, non mi stare disturbando né niente, però anche da diritto, dai. Andate, ci sentiamo ragazzi, buona continuazione in pressione, anche se mi dispiace mollarvi, ma devo andare, dai. Ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Roberto, se mi stai ascoltando, buona serata anche a te. Ciao a tutti gli ascoltatori.